Antonio Zoviet da Firenze, anche lui un progetto molto interessante dal nome Omicidio. Francesco Cornello in quel di Bergamo, Arianna e Flavio di Noise Cluster, progetto di elettronica industriale qui a Roma, Tabula Rasa dalle parti di Cortina d'Ampezzo. Dunque lo streaming sembra fungere anche a perfezione, meglio così. Sappiamo tutti che quando c'è il maltempo ci sono sempre problemi di trasmissione in ogni modo, sia con il modo tradizionale ma anche quello con lo streaming. Risente della elettricità e del maltempo eccessivi. Un saluto anche a Eloquence Recycle di H501L. Allora, andiamo un po' a fare il punto della situazione della carriera di Jaron Reuter e i suoi ROM. È un artista al quale siamo affezionati, nel senso che spesso lo mandiamo, anche perché lui è un artista per l'appunto alquanto produttivo a livello quasi di staccanovismo musicale. Anche quest'anno ha fatto, se non sbaglio, sicuramente due album, l'anno scorso tre, anche diversi l'uno dall'altro. E quindi quest'anno, nel 2020, ne ha fatti due per l'appunto. Noi eravamo rimasti a Kafferzeit dell'anno scorso, quest'anno ben due lavori, The Long Furrow e Garten und Strassen, quest'ultimo somigliante proprio a Kafferzeit, con un cipiglio più martial industrial, mentre The Long Furrow alterna momenti sicuramente martial ma ad altri più vicini al tipico neofolk di questo artista lussemburghese. Quindi ci ascoltiamo le prime tre tracce: Masters of the Heart, Tiriat Sig Tirias e Actum Baby, peraltro uscita anche su 7 pollici. Poisonous myths in the minds of our peoples, by proclaiming himself sovereign at the crossroads of ideologies. This, his modern civilization, is not superior. It is not enlightened nor privileged. This man of progress is a decrepit man, a defeated, crepuscular man, in the dark as to whence and whither. He is moving from nothing to nothingness. He has neither shape nor form, neither grace nor purpose, cadaverous wisdom is glorified as the overcomer, the justifier, and liberator in an otherwise dark and superstitious world. But rest assured, you who deem yourselves masters of the earth, we have not vanished. We, late children of the tradition, still have dominion over you. We have dominion. What you need is dream and deed. When longing and greed entwine, you'll drink of life as lesser men drink wine. At the triclinium feasts where red-clad priests crowned with white rose wreaths lie, and cut what will die from what will rise, rise by rites like these. The spring of the soul will claim its own, and spirits curl up in the ashwood. When the earth is scorched, we'll carry the torch to where once your father stood. Bid me speed when what I need is dream and deed. When longing and greed are mine, I'll drink of life as lesser men drink wine. Make strong old dreams, lest our world lose heart. Make strong old dreams, lest this our world lose heart. Make strong old dreams, lest our world lose heart. Make strong old dreams, lest this our world lose heart. Make strong old dreams, lest our world lose heart. Make strong old dreams, lest this our world lose heart. Make strong old dreams, lest our world lose heart. Make strong old dreams, lest this our world lose heart. Make strong old dreams, lest our world lose heart. Make strong old dreams, lest this our world lose heart. Make strong old dreams, lest our world lose heart. Make strong old dreams, lest this our world lose heart. Not some flashes that never shone bright. We worship not the ashes of what once burned alight. We preserve the fire, we protect the flames. Our gods eternal go by different names. The birds have the eagle, beasts have the lion. And I shall be kneeling before that king of mine. The birds have the eagle, beasts have the lion. And I shall be kneeling before that king of mine. We worship not some flashes that never shone bright. We worship not the ashes of what once burned alight. We preserve the fire, we protect the flame. Our gods eternal go by different names. The birds have the eagle, the beasts have the lion. I shall be kneeling before the King of Fire. The birds have the eagle, the beasts have the lion. I shall be kneeling before that King of Fire. Chiama The Long Pharaoh, ultimo lavoro per Rom di Jérôme Reuter, ricordo lussemburghese. Ma è giusto anche nominare chi lo accompagna soprattutto dal vivo, Mark Murphy e Reggie Fane. Una carriera lunga costellata dai primi tre lavori, più in odore per l'appunto neofolk martial, incisi attraverso la Cold Meat Industry, etichetta svedese di Roger Karmanik. Poi dal 2009 in poi un lungo sodalizio con la teutonica Trisol, andando ad alternare, come ho già detto, lavori martial e neofolk con una carriera invece centrale più costellata soprattutto invece da un approccio più dark wave rispetto agli inizi. Poi ultimamente ha prevalso più il primo aspetto, aggiungo io fortunatamente, ma questi ovviamente sono gusti personali, sfornando in due anni una serie di album interessantissimi, dalle ceneri di Eliodoro dell'anno scorso appunto Kafferzeit, e quest'anno The Lone Pharaoh e Gart und Strassen, altrettanto interessantissimo, e lo manderemo nella serie di prove tecniche di trasmissione a testimonianza di un aspetto anche sperimentale di questo grande artista. Un artista visto dal vivo due o tre volte e anche dal vivo recentemente migliorato, ha guadagnato in freschezza e mi fa piacere, tenendo conto che in genere molti artisti perdono un po' di verve negli anni che passano. Lui ne ha guadagnata in maturità e nello stesso tempo in freschezza e di incisività del suono. Vado a salutare Maria qui a Roma, di nuovo Eloquence Recycle, il Noise Cluster con Flavio Derbepanche. e Arianna Degni Lombardo. Marco sempre qui a Roma. Un grosso abbraccio ad Ernesto, Dark Phoenix, Galle e a Iris Blu. Nicola Locci in Sardegna, lo risalutiamo. Fulvio Biondo, vecchia conoscenza di Solar Lodge. Jean-Claude Bertot dalla Val d'Aosta. Isetual da Milano. Un album questo, The Long Furrow, tranquillamente lo posso inserire per adesso tra i migliori album del 2020. Ed attenzione, in questi giorni sono usciti due album interessantissimi, belli. L'ultimo di House Rafna, si chiama Asce, e Deus, non mi ricordo il titolo, lo andrò a vedere. Comunque l'ultimo disco di Orplid, altrettanto interessante, Orplid molto cambiati e a metà tra folk ed elettronica, quindi una svolta artistica efficacissima per questo duo proveniente da Halle, vicino Lipsia. Deus Vult, eccolo qua il nome. Mi ricordavo Deus, ma non mi ricordavo Vult. Un ultimissimo lavoro di Orplid, chiaramente entrambi li ascolteremo presto da queste parti. Come dice Isetual, speriamo che migliori anche nelle capacità dal vivo. Rom, io confermo che l'ho visto uno o due anni fa e l'ho trovato direi più vivo rispetto alla opacità di qualche anno fa. Sentite che carica. Vado dunque a Rome con questo The Long Furrow. Arriviamo qui in Italia per andare a segnalare una provvidenziale ristampa di una compilation storica della fine degli anni Ottanta. Una compilation dal nome F Hear This, che conteneva una serie impressionante di nomi italiani e non. Una compilation che usciva attraverso Stella Nera, un'etichetta vicina alla rivista anarchica famosa di quegli anni, a rivista anarchica, questo è il nome completo, e che recentemente è stata ristampata, e io l'ho saputo grazie a Francesco Cornello, ristampata ovviamente in digitale. Ebbene, questa sera ci ascoltiamo Politrio, che fu uno dei primissimi gruppi di Giorgio Canali, poi conosciuto soprattutto come CSI, PGR eccetera, e anche come Rosso Fuoco, che è il suo progetto solista. E poi i Franti, che naturalmente non hanno bisogno di presentazione. I Franti ci faranno Voghera, registrata live. Voghera fu un carcere di massima sicurezza. Politrio con Bolero 4. Any second thoughts, not hungry much. Yeah. mali del tempo e del mondo guariscono, mentre muore ogni Lenin tra i vetri, qualcuno si ferma, sparisce, nasconde se stesso e aspetta in silenzio. Franti dal vivo, questa è Voghera, sempre da F.E.R.D.S. Due pietre cadono sulla porta d'acciaio invisibile, due ore nate per caso, morte ogni giorno, vetri che fanno respiro affannoso, l'armadio rotondo tocca il cielo, il soffitto, il giorno e la notte, aperti dai muri e la pelle, con i loro rumori. L'amore e i fini capelli dei bimbi, rosso ferro nelle unghie rotte, la matita testarda, lei capisce il tempo, tu ne sei fuori dentro e la voce si stanca più fredda di quando non sai, di quando non sai. ieri, qui fuori c'eri anche tu. Oggi qui dentro sei e tutto è tu. Due ore andate per caso, morte ogni giorno. Adesso corri, corri, corri, il letto non parla, lascia fare, lascia sognare. Adesso corri. Anche questa sera dunque spazio a Elf Ear Dis, questa compilation storica del 1987. Marco Pandin, Vittore Baroni, Francesco Cornello, che mi ha reso edotto della riuscita di questa interessante testimonianza con un grosso spessore politico che vedeva unite a tanti gruppi anche inaspettati per un'operazione del genere, almeno per quanto mi riguarda. Perché poi troveremo anche, che so, Embryo, per dire. Ma anche Die Form, Anni Anxiety, Nars With Wound, insomma, anche gruppi che personalmente non mi aspettavo partecipassero a una compilation anche dal profilo politico. Una compilation che sentiremo un po' sia qui sia in prove tecniche di trasmissione, anche perché c'è una parte più sperimentale e un'altra più vicina alla New Wave, come è stato con questi Politrio di Giorgio Canali. Giorgio Canali, Massimo Sbaragli e Roberto Zoli. Per amor di verità è giusto anche citare gli altri meno noti. I Franti, vabbè, non hanno bisogno di presentazione, con la voce che fu quella di Lalli. Allora c'erano anche Marco Ciari, Massimo D'Ambrosio, Vanni Picciuolo e naturalmente il sax di Stefano Giaccone. Ultimamente c'è una versione diversa di Franti, con una parte dei protagonisti di allora. Sicuramente non c'è Lalli, che ha intrapreso una carriera diversa. Però nel loro caso pregevole fu l'unione tra punk, post-punk e jazz rock. Arriviamo invece più direttamente nel grosso contenitore del gothic rock, al quale appartiene sicuramente The Spiritual Bat, progetto Frusinate, con Rosetta Garré e Dario Passamonti. Questa sera ennesimo passaggio per Your Own World and Division Sound, il penultimo lavoro in attesa dell'ultima opera